giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Il Monte Paito, per chi non lo conosce, è piccolissimo per nascondere un'autovettura, ma è grandissimo per nascondere un corpo. La definisce così Maurizio Cerino, cronista del Mattino di Napoli. Quella boscaglia impenetrabile, attraversata da un complesso sistema di minuscoli sentieri, casolari abbandonati, utilizzati come rifugio da pericolosi latitanti oppure per celebrare strani riti, perfino quelli satanici. Per chi vive nei paesi intorno, il Monte Paito è il monte dei misteri. La storia che vi raccontiamo parte da una data precisa, 10 agosto 1996. Sul Monte Paito un gruppo di amici organizza una gita fuori porta. I bambini giocano a pallone e ridono spensierati mentre i genitori li osservano, proseguono tranquilli nelle loro conversazioni. Ma attenzione, avviene un fatto strano. Catello Celentano cerca con lo sguardo Angela, la sua bambina. Non l'aveva persa di vista fino a quel momento, ma ora non la trova più. Si alza in piedi, ripercorre alcuni sentieri e coinvolge in questa ricerca l'intera famiglia. Ma di lei nessuna traccia. È mezzogiorno e da quel momento di Angela non si hanno più notizie. Angela oggi ha 11 anni. La immaginiamo con gli occhi scuri e profondi, la carnagione colorita, i capelli castani fino alle spalle. Almeno questo è il volto ricostruito dalla polizia, stampato sui volantini, appesi nelle stazioni, nei bar, nei tanti luoghi pubblici. Quando scompare, Angela ha solo 3 anni. Sul Monte Paito quella mattina ci sono i fedeli della comunità evangelica di Vico Equense. Tra loro anche la famiglia Celentano. Quando si accorgono che Angela è scomparsa, iniziano disperatamente a cercarla. Tra le 13.50 e le 14.10 parte la richiesta d'aiuto. È necessario raggiungere il telefono fisso del centro sportivo proprio lì vicino. Ma sul Paito i cellulari sono scollegati. Non c'è linea alcuna. La ricerca, dunque, va a vuoto. Renato, un amico della piccola, è l'ultimo bimbo che la incrocia. L'accompagna al parcheggio. Giungono a metà della discesa e stanno percorrendo un sentiero e a quel punto Renato si rivolge ad Angela. La mamma ti aspetta, torna indietro. Così si volta e la vede allontanarsi e scomparire. Nei giorni successivi i genitori non abbandonano mai il luogo della scomparsa, poi intervengono i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia, l'esercito, le unità cinofile, gli elicotteri, sotto la direzione della prefettura di Napoli. Proprio da qui, da questo punto, iniziano le indagini. Inquirenti perlustano tutti gli anfratti, i cani fiutano ogni centimetro, tutte le piste vengono battute. Gli investigatori perfino ipotizzano un possibile coinvolgimento della comunità evangelica. Al microfono di Elena Seno, Maurizio Cerino del Mattino di Napoli ci aiuta a ripercorrere questa ipotesi investigativa. Innanzitutto io escludo a priori la comunità evangelica per essermi intrufolato, non dico infiltrato, ma intrufolato, senza chiedere troppi permessi. E le posso dire che la comunità evangelica, vi dico Equense, ma tutti i praticanti di quel credo religioso sono persone integerime, non vorrei essere confuso, non sono integralisti, sono integeri, cioè hanno un'onestà interiore che lascia senza parole per certi aspetti. Sulla scomparsa di Angela si fanno molte ipotesi, traffico di organi, rapimento, un'adozione illegale, la ricerca di un corpo mai trovato, ma c'è un particolare. La famiglia Celentano ascolta al telefono il pianto disperato di una bambina. È il 19 agosto 1996, spunta un nuovo testimone, un ragazzo pure lui quella mattina sul Monte Paito, conserva un ricordo preciso. Nel parcheggio due uomini rapiscono Angela e la fanno salire sulla loro auto. 3 anni dopo la svolta dell'inchiesta, si indaga su Gennaro Celentano, lo zio di Angela. Una frase della figlia di Gennaro insospettisce gli inquirenti, viene pronunciata la sera prima della gita sul Faito. E se domani si pigliano Angela nel bosco? Pesano anche i conflitti interni alla famiglia, il forte indebitamento di Gennaro, ma l'accusa cadrà nel nulla nel maggio del 2000. A 8 anni dalla scomparsa resta comunque un punto fermo, come conferma Maurizio Cerino al microfono di Valeria Mosse. Resta valida una sola cosa, io con l'immagine dinanzi agli occhi del cane, del cane dei friulani, delle guide alpine friulane, che non appena iniziò a cercare la pista, l'odore di Angela, si fiondò su una pista e si fermò al bordo strada, perché veniva dallo sterrato del prato, diciamo, e si fermò al bordo strada, là dove passano le autovetture, e lo fece 6-7 volte, addirittura la madre andò a prendere altri indumenti, altre cose, sempre lo stesso tragitto, e che è un classico proprio del prendere la bambina, sollevarla e metterla in un veicolo, in un furgone, in un accidente qualsiasi. Le dichiarazioni si incrociano e spesso si confondono, ma le certezze restano poche. Il 4 ottobre 2004 giunge l'ennesima segnalazione. Una ragazza a Rom sembra assomigliare ad Angela, i vigili urbani la fermano, la interrogano, ma il test del DNA escluderà questa ipotesi. Angela non è la sola bambina scomparsa. Proprio come lei, Denise Pipitone, scomparsa nel nulla all'inizio del settembre del 2004. Nei suoi occhi e nel suo sorriso molti hanno poi rivissuto il mistero del Faito. E allora, quali elementi non vanno sottovalutati nel caso di scomparsa di minori, come per Angela Celentano e Denise Pipitone? Filomena Rosso, inviata della trasmissione Chi l'ha visto? Certamente va, non so, non va mai sottovalutato l'ambiente familiare, le amicizie, insomma, il contesto, ecco, circondava, insomma, in cui vivevano queste due bambine. E non bisognerebbe poi mai sottovalutare il fatto che, insomma, trattandosi di minori, chiaramente ci sono degli adulti che ruotano intorno a questi minori, quindi, insomma, nel caso di Angela, la bambina non era sola quel giorno, e come le dicevo prima, è molto strano che una bambina si allontani senza chiamare la mamma o gli zii o le sorelline. Nel caso di Denise, insomma, è un po' la stessa cosa, giocava per strada in un vicolo, insomma, dove abitavano tutti i suoi parenti. Questo è quello che penso, e sicuramente, insomma, rimane inspiegabile in tutti e due i casi, come nessuno possa non aver visto. Ecco, io personalmente ritengo che sia, insomma, nel caso di Angela, nel caso di Denise, qualcuno sicuramente molto vicino alle bambine sa che cosa è successo, sicuramente. Una bambina di 3 anni, insomma, un minore non può allontanarsi così senza, insomma, chiamare i genitori o... No, questo penso che sia poco probabile, ecco, soprattutto quando la scomparsa avviene in posti affollati, pieni di gente. Colpito molto il fatto che Maria, la mamma di Angela, per moltissimi anni, ogni compleanno, ogni Natale della bambina, ha continuato a conservare il regale, cioè lei ha altre due bambine, loro hanno altre due bambine, ma ogni anno continuano a fare regali anche per Angela, insomma, li tengono chiusi in un armadio e non si rassegnano mai. Certo, è poco probabile, insomma, rassegnarsi, no? La scomparsa di un figlio, quindi la non rassegnazione, cioè la mamma, soprattutto Maria, insomma, è assolutamente certa che la bambina sia viva e che sia da qualche parte. Questa è una cosa, insomma, a distanza di tanti anni, no? Potrebbe subentrare una certa rassegnazione, però, ecco, questa è una cosa che mi colpisce tutte le volte che parlo con loro, perché per loro è come se fosse successo ieri, e c'è sicuramente da parte loro, soprattutto da parte della mamma, la certezza che Angela un giorno tornerà.